dottor Giannulli? Allora, buongiorno a tutti e veramente grazie di essere venuti così numerosi stamattina. Non vi nascondo che è emozionante parlare in università davanti a tutte queste persone. Io cercherò di rubare il meno tempo possibile al dibattito, perché abbiamo tanti ospiti importanti che vale molto più la pena di me sentir parlare. Dico pochissime cose. La prima, non vi sto qui a annoiare su chi è, cos'è l'Apsus, chi siamo, cosa facciamo, così, perché sarebbe una perdita di tempo. Quello che vorremmo dire però è che, dato che abbiamo ricevuto parecchie mail di persone interessate a partecipare, a sapere cosa facciamo, così, l'unica cosa che vi dico è che noi ci riuniamo giovedì pomeriggio, questo, alle 15.30 nel bar dei poveri, quello che c'è vicino al Bronx Lab. Per chiunque è interessato a venire a lavorare con noi, a capire cosa facciamo, vi rimando a quell'occasione. Chi non potesse intervenire, vi invito a scriverci una mail a lapsus.storia@yahoo.it, che è la mail che trovate anche sui volantini all'ingresso, e insomma cercheremo di trovare il modo di incontrarci per lavorare insieme e per spiegarvi cosa vogliamo fare. Detto questo, io ringrazio gli ospiti di stamattina, che sono Carlo Lucarelli, che si presenta da solo, Piero Scaramucci, Aldo Giannulli, e siamo in attesa di Ranieri Polese, che credo stia arrivando, però cominciamo anche perché poi alle 12.45 dovremo chiudere perché c'è un'altra conferenza. Il libro. Stamattina siamo qui per presentare questo libro, un libro molto corposo, che insomma si ricollega anche un po' all'iniziativa che abbiamo fatto settimana scorsa sul caso Moro con il libro di Giuseppe De Lutis, e che vi introduco proprio in maniera indegna, però in due parole. La controinformazione. Questo libro tratta il fenomeno della controinformazione, che è stato un fenomeno caratteristico degli anni 70, che inizia, che Aldo Giannulli fa cominciare giustamente con il libro La strage di Stato, seguito a Piazza Fontana, e che ha visto lo svilupparsi appunto di questo fenomeno, che era un vero e proprio servizio di intelligence che raccoglieva informazioni e che veniva fatto da tutti i militanti, che in quel periodo erano numerosissimi, i militanti di tutta quella sinistra extraparlamentare che si poneva alla sinistra del PC, e che in quegli anni, proprio perché militava, faceva questa militanza attiva e c'era quella grandissima partecipazione che tutti conosciamo, e in quegli anni di grande tensione, in cui appunto c'erano tutti gli eventi che sappiamo, da Piazza Fontana, la strategia della tensione, gli anni di piombo, in quegli anni appunto la controinformazione raccoglieva, era proprio un servizio parallelo a quelli che erano i servizi segreti, e per sostenere la militanza raccoglieva informazioni, particolari iniziative per sostenere appunto quella che era la grande partecipazione che c'era in quegli anni. Aldo Giannulli in questo libro ripercorre le luci e le ombre della controinformazione, che ha avuto appunto questo grande exploit dopo Piazza Fontana, e che poi però ha dimostrato di avere non pochi problemi, nel senso che anche la controinformazione è caduta molto spesso in quegli errori di depistaggi, di false interpretazioni sbagliate, di appunto depistaggi che l'hanno condotta molto spesso sul finire degli anni 70 a commettere degli errori veramente importanti, soprattutto rispetto ad alcuni episodi. Questa mattina appunto siamo qui per parlarne. Carlo Lucarelli è un po', se vogliamo, l'ultimo baluardo della controinformazione. Poi lui ci dirà perché forse non la pensa tanto così. Ieri sera ha avuto modo già di spiegarlo in una trasmissione radiofonica, però indubbiamente, voglio dire, la sua trasmissione è un esempio di come si possono raccontare determinati avvenimenti e determinati fatti in maniera diversa, se vogliamo, da quella che è l'informazione ufficiale. Piero Scaramucci è stato direttore di Radio Popolare, è stato uno dei fondatori di Radio Popolare, che credo tutti sappiate è stata la radio della controinformazione, per cui nessuno meglio di lui ci potrà raccontare questa esperienza e poi abbiamo Aldo Giannulli che alla fine ci parlerà del suo libro. Io vi ringrazio ancora e passo il microfono a Carlo Lucarelli.